Focus Economia con Deborah Rosciani. Buonasera da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia. Siamo alla versione estiva del nostro programma, durata un'ora ma ricca di notizie da commentare, perché naturalmente, lo sapete, intanto la politica fa molta fatica ad andare in vacanza e peraltro parleremo proprio anche nel corso della trasmissione di una delle riforme che si vorrebbero portare a casa entro la fine di agosto, la riforma del sistema portuale italiano, una delle tante riforme che il governo ha in cantiere. Questa è contenuta all'interno del progetto Sblocca Italia, che come sapete prevede tutta una serie di misure destinate a far ripartire l'economia italiana, e vedremo in che cosa consiste appunto questa iniziativa legata al sistema portuale italiano. Ne parleremo nel corso della trasmissione con un esperto, ma sarà solamente uno dei tanti argomenti che riusciremo comunque ad affrontare in un'ora. La borsa, allora, la mattinata era partita meglio, soprattutto per Milano, che guadagnava oltre mezzo punto percentuale, poi si è un po' indebolita nel corso della seduta. Adesso per il FTSE MIB abbiamo più 0,14%, leggermente positiva anche Parigi. Da stamattina Francoforte negativa e mantiene il segno meno, sta perdendo lo 0,58%, Londra è sulla parità ed è leggermente negativa anche la seduta di Wall Street. Tra l'altro sul mercato americano già le vendite si stanno concentrando da qualche seduta a questa parte, c'è anche insomma chi sta sostenendo che la correzione sia in arrivo. Peraltro proprio nei giorni scorsi lo ha fatto un grande vecchio della finanza mondiale, Alan Greenspan, che per 18 anni è stato seduto sulla poltrona della Federal Reserve, e insomma lui ha detto: non mi stupirei affatto se una bella correzione sui mercati arrivasse, però non si è sbilanciato sul momento in cui questa correzione potrebbe arrivare. In ogni caso oggi per le borse sarà anche un po' complice il clima estivo, giornata assolutamente fiacca. In questo momento a Milano, peraltro, una notizia che è arrivata poco fa, l'ho vista lampeggiare dalle agenzie proprio negli ultimi minuti, ha ripreso a correre Telecom Italia, sta guadagnando l'1,64%, la banca centrale cinese ha comprato oltre il 2% di azioni Telecom Italia, l'operazione sarebbe avvenuta il 29 luglio, questo è quanto emerge dalle ultime comunicazioni Consob. Ma naturalmente parleremo anche degli altri casi di Piazza Affari, ma oggi a galvanizzare, almeno nella prima parte, la seduta di borsa, o quantomeno a galvanizzare la giornata dei titoli bancari, è arrivata la notizia questa mattina del salvataggio, naturalmente da parte dello Stato, del Banco Spirito Santo, un aiuto da quasi 4 miliardi e mezzo di euro. Tutte le attività tossiche della banca finiranno in una bad bank, come si dice in gergo finanziario, ed è appunto un salvataggio questo molto importante, anche se andiamo a vedere l'importo non è che sia poi così rilevantissimo, ma è chiaro che l'atteggiamento da molto tempo a questa parte degli stati è quello di salvare le banche, perché nessuno più vuol vedere quello che è successo nel settembre del 2008 con il fallimento clamoroso e drammatico per certi versi di Lehman Brothers, per cui ne parleremo anche di questo. Poi parleremo anche ancora di fatti italiani, naturalmente la casa, il pensiero principale in cima appunto è sempre in testa degli italiani. Oggi il Sole 24 Ore pubblica la graduatoria delle città sui quali potrebbero accanirsi gli aumenti maggiori dalla riforma appunto del catasto. Sono Pistoia, Pesaro e Messina, e sono proprio le tre città in cui il rinnovo del catasto, il nuovo catasto, rischia di portare i maggiori rincari di imposte. I tre capoluoghi di provincia sono quelli in cui i valori catastali sono i più lontani dalle quotazioni medie di mercato, per cui la revisione del catasto potrebbe portare una bella batosta a carico dei contribuenti che vivono in queste città, contribuenti naturalmente e proprietari. Quindi anche stasera gli argomenti di discussione non ci mancano. Se volete commentarli con noi potete farlo al 349 238 6666. Il primo messaggio è già arrivato: dove è Barisoni? È andato in ferie, che cosa volete fare? Anche lui ogni tanto deve fermarsi. Adesso le notizie in breve. L'Europa non ha ancora messo alle sue spalle la crisi, anche se ci sono stati dei progressi, lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ad Atene, spiegando: abbiamo già fatto un lungo cammino e siamo verso la fine. Con l'aiuto dell'Unione europea, la Grecia ha evitato le ripercussioni del default dell'Argentina. Lo ha detto il premier greco, Antonis Samaras, aggiungendo che la Grecia però non dimenticherà il sostegno avuto dalla Commissione europea, quindi da Juncker, il neo presidente della Commissione europea, con cui oggi proprio Samaras si è incontrato ad Atene. E la Grecia sta centrando tutti gli obiettivi macroeconomici chiesti dalla Troica. Ora si apre per il paese una nuova fase all'insegna della crescita e della creazione dei posti di lavoro. Lo ha detto sempre il premier greco Samaras parlando in questo incontro ad Atene con il neo presidente della Commissione europea. E a proposito di stati traballanti, chiaramente anche il Portogallo negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé, ma adesso è nelle condizioni finanziarie di iniettare quasi 4 miliardi e mezzo di euro in Banco Spirito Santo, al centro di una vera e propria tempesta finanziaria da diversi mesi. L'annuncio è stato fatto ieri sera dal governatore della Banca Centrale del Portogallo. Poi c'è stato naturalmente anche il via libera da parte della Commissione europea a questi che sono dei veri e propri aiuti di Stato per la banca portoghese in difficoltà. Il salvataggio è stato valutato in linea con le regole europee. Secondo Bruxelles, la soluzione trovata è sufficiente a ripristinare la fiducia nella stabilità finanziaria del paese per garantire la continuità dei servizi, evitando naturalmente potenziali effetti sistemici negativi. Poi ne parleremo, ma intanto vi anticipo che le attività cosiddette tossiche e deteriorate del Banco Spirito Santo saranno isolate all'interno di una struttura di dismissione, quella che ormai anche da molti anni in gergo finanziario abbiamo imparato a ridefinire, ribattezzare appunto Bad Bank, la parte cattiva praticamente della banca, che sarà proprio quella incaricata della liquidazione. Questa notizia è stata data sempre dal governatore della Banca Centrale Portoghese, Carlos Costa. Le attività sane saranno invece raggruppate in una nuova banca chiamata Novo Banco, controllata dal Fondo per la risoluzione delle banche portoghesi, che è stato creato proprio nel 2012 su richiesta anche in quel caso della Troica, formata da Unione Europea, Fondo Monetario e Banca Centrale Europea, per affrontare le crisi bancarie. Andiamo alle questioni italiane, poi sulla situazione del Banco Spirito Santo ci torneremo più avanti con il collega del Sole 24 Ore Fabio Pavesi. Andiamo invece alla situazione italiana, alle notizie italiane. Il prossimo non sarà un autunno caldo, per la verità neanche questa estate lo è particolarmente, ho fatto la battutona. A definire le cifre del 2015 è prematuro. Iniziamo con il dire che non ci sarà una manovra correttiva quest'anno, abbiamo un impegno di ridurre le spese di 16 miliardi, che vuol dire circa il 2% della spesa. Cercheremo di mantenerlo. In ogni caso non toccheremo le tasse. Incidiamo queste parole sulla pietra. Oggi tutti i denari che servono verranno dalla riduzione della spesa. Ecco perché non mi interessa il nome del commissario alla spending, ma la sottolineatura che la spending è scelta politica, non tecnica, che dipende dalla politica. Questo è il sunto dell'intervista che stamattina Matteo Renzi ha rilasciato a Repubblica. Niente quota 96, quella che sbloccava 4.000 pensionamenti della scuola. Saltata anche la soglia di 68 anni per i pensionamenti d'ufficio di professori universitari e dei primari. Cancellato infine lo stop alle penalizzazioni che erano state introdotte dalla riforma Fornero per chi va in pensione a 62 anni. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera al provvedimento sulla pubblica amministrazione, compresi gli emendamenti proposti dal Governo. Sul disegno di legge, con ogni probabilità, sarà posta la questione di fiducia al Senato. Mi sembra ragionevole, bisogna correre, ha affermato il ministro Marianna Madia. Nell'intervista a Repubblica di Renzi, che abbiamo citato poco fa, il premier dice anche che il patto del Nazareno non nasconde nessuna legge salva Berlusconi. Le famiglie italiane, torniamo un po' alle questioni italiane legate al risparmio, tornano a puntare sui fondi comuni di investimento, questo l'abbiamo capito perché l'industria è ai massimi da un paio d'anni, e sulle polizze vita per investire nella loro ricchezza finanziaria. Questa è una fotografia che è stata scattata dalla Banca d'Italia nel supplemento al bollettino statistico sui conti finanziari. Nel primo trimestre di quest'anno si sono registrati forti aumenti dei flussi delle famiglie verso i fondi comuni, pari a 16 miliardi e mezzo di euro, e c'è un aumento del 10% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Forte balzo soprattutto per le riserve del ramo vita e i fondi pensione, più 291%, a oltre 12 miliardi dai 3 miliardi di un anno fa. Rispetto allo scorso anno emergono anche forti disinvestimenti delle famiglie dai titoli azionari italiani. Io vi anticipo che questo sarà anche uno dei temi che domani toccheremo a partire dalle 11 a Cuore Denari. E intanto abbiamo appreso che più tardi, intorno alle 18, lo si apprende appunto da alcune agenzie, i soci di Alitalia hanno in programma di andare al Ministero dell'Economia per limare gli ultimi dettagli in vista dell'arrivo, presumibilmente domani, dell'amministratore delegato di Etihad, James Hogan. Andiamo anche noi alla tragedia che si è consumata l'altra sera in Veneto. Dopo la bomba d'acqua di sabato a Refrontolo si fa ora la conta dei danni e si piangono le 4 vittime del disastro dopo l'esondazione dell'Iersa. Anche il Senato oggi ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dei morti. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti stamattina si è recato sul posto. Coldiretti punta il dito sui rischi derivanti dall'incuria dei boschi. I carabinieri hanno provveduto intanto al sequestro delle aree interessate per le indagini e le analisi tecniche. Le coltivazioni a vigneto, come quello del Prosecco, non c'entrano nulla con le frane e gli smottamenti, lo ha ripetuto oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Refrontolo, dove ha effettuato un sopralluogo con il ministro dell'Ambiente, appunto. Zaia è stato raggiunto ed intervistato telefonicamente dalla nostra Valentina Furlanetto. È stata l'occasione per riparlare della tragedia di Refrontolo, di tutto quello che corrisponde alla verità e di tutto quello che non c'entra nulla con questa tragedia, tipo le polemiche sulle devastazioni, sulla cementificazione, l'opera dell'uomo che proprio, mi permetta di dirlo, in questo caso non c'entrano nulla. Ci sono però state negli ultimi anni delle frane, dei problemi a Santo Stefano di Valdobbiadene, a San Pietro di Felletto. Da questo punto di vista invece dei vitigni che per alcuni potrebbero in qualche maniera non assorbire abbastanza l'acqua, lei che cosa dice? È vero che a volte si ruba bosco, in alcuni casi a favore dei vigneti, ma dico che dove c'è un vigneto c'è un presidio di un agricoltore a differenza di un bosco abbandonato. Che i vigneti coltivati oggi nella zona della DOCG, quindi Conegliano Valdobbiadene, sono numericamente inferiori a quelli coltivati 50 anni fa e che le frane che si vedono molto spesso, oltre a quelle di qualche vigneto come ha citato lei, anche quelle di questi giorni in altri comuni sono ad esempio nelle aree boschive. La verità è che sono colline moreniche sempre in continuo movimento. Quindi rigetta totalmente al mittente queste polemiche? No, dico che i vigneti possono essere un problema quando sono realizzati male, ma a me risulta che i vigneti innanzitutto che sono nelle colline sono quelli ormai storici e vengono manutentati. Nel momento in cui si vanno a rimpiantare sottostanno tutta una serie di documentazioni, di permessi, ma soprattutto hanno l'obbligo della regimazione idraulica fatta in maniera assolutamente ineccepibile. Noi nel 2010 abbiamo avuto la grande alluvione, il vero problema del dissesto idrogeologico l'abbiamo vissuto da vicino e sia chiaro, abbiamo avuto 235 comuni alluvionati e 10.040 persone o imprese che hanno avuto l'acqua in casa o nelle aziende. E noi non abbiamo avuto un'alluvione da sormonto arginale, cioè non è che l'acqua era tanta e ha sormontato gli argini, perché il paesaggio del Veneto è quello degli argini, ma è bensì un'acqua che è uscita dagli argini, ovvero abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali, a dimostrazione che c'è necessità di fare una manutenzione poderosa e poi parimenti realizzare anche bacini di laminazione e casse di espansione, il che vuol dire che ci vogliono 2 miliardi di euro per mettere in sicurezza totale il Veneto e per non vedere più città come Vicenza dove i pompieri circolavano con il gommone e non più con le auto come dovrebbe avvenire. E questo era Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, intervistato da Valentina Furlanetto. Un'ultima notizia molto breve prima del nostro primo approfondimento di oggi: è stato siglato l'accordo finale per il canale di Panama. Salini in pregilo alla guida del consorzio, appunto, che eseguirà i lavori. Abbiamo parlato molto spesso nei mesi passati. Il completamento dell'opera è previsto entro il 31 dicembre del 2015. Dal canale di Panama andiamo adesso invece a parlare con il nostro primo approfondimento di oggi dello stato di salute dei porti italiani. Eccoci al nostro primo approfondimento di oggi. Come vi dicevo, parliamo di economia marittima italiana, un settore che, pensate, impiega 500.000 di persone, vale circa il 3% del PIL italiano, qualcosa come 45 miliardi di euro, ma che naturalmente, come ogni comparto, risente della crisi. Vi do qualche altra indicazione, tanto per darvi l'idea dell'importanza del settore del quale parliamo. L'Italia scambia ogni anno con il resto del mondo merci per circa 230 miliardi di euro. Complessivamente via mare transita l'80% dell'interscambio mondiale. Ogni anno sulle banchine italiane approdano quasi 480 milioni di tonnellate di prodotti. Ma naturalmente questo settore non è solo questo, ci sono anche dei problemi che si tenta di studiare in questo momento attraverso la riforma del sistema portuale italiano, che però è ancora in fase di stallo. Il via libera da tutto ciò che è contemplato, appunto, dal progetto Sblocca Italia dovrebbe essere questione di poche settimane, e naturalmente ci sono grandi attese da parte degli operatori del settore. Ne parliamo con l'avvocato Umberto Masucci, presidente di International Propeller Port Club. Avvocato, buonasera intanto. Buonasera. Spero di aver detto tutto correttamente per ciò che attiene alla sua, al suo impegno, appunto, e al suo incarico. Intanto ci dice che cos'è questa associazione? Ma il Propeller, che è nata negli anni 20, nel 1922 a New York, in America, si è poi sviluppata nel mondo per semplificare i rei e i rotari del mare. Ne fanno parte nei porti italiani, abbiamo 21 club, io sono il presidente a Napoli e il presidente italiano, ne fanno parte tutti i principali imprenditori del settore, quindi armatori, agenti marittimi, terminalisti, spedizionieri, insomma quelli che controllano l'economia del mare e della logistica in Italia. Come dicevo poco fa, in molti sono appesi, tra virgolette, al progetto Sblocca Italia, che prevede una serie di misure destinate a far ripartire tutta l'economia italiana. Abbiamo lo sblocca cantieri, lo sblocca energia e naturalmente anche il cosiddetto sblocca porti, che vorrebbe potenziare il sistema portuale italiano, evitando, avvocato, che il traffico arrivi in altri paesi. Naturalmente, intanto ci racconta un po' quali sono i presupposti di questa riforma, qual è attualmente, come dire, la situazione del sistema portuale italiano. Aggiungerei soltanto un dato alla sua fotografia con la scheda iniziale. Tutti i dati esatti, quelli che avete dato, l'unica cosa che aggiungerei è la crescita del settore, perché questo dà effettivamente il senso dell'importanza del nostro settore. Cioè, in 15 anni, dalla prima fotografia del Censis sull'economia del mare a quella del 2011, che era la quarta per noi, per la Federazione del Mare, c'è stato un più 65% del PIL e un più 60% degli occupati. E questo dato continua a crescere, cioè noi abbiamo un'economia del mare che tutt'oggi cresce in controtendenza con quello che è l'andamento dell'economia italiana. Quindi sicuramente trattiamo di un settore molto importante per l'import e l'export italiano, ma di un settore che ha delle eccellenze. Quindi queste eccellenze soprattutto le ha nello shipping, nell'armamento, nelle navi da crociera, nei traghetti e quant'altro, però ha delle criticità che vanno sanate. E qui veniamo al problema portuale. Allora, perché? Qual è la mia analisi? La mia analisi è quella lo Sblocca Italia è un provvedimento sicuramente giusto nel metodo, poi vediamo nel merito. Nel metodo, perché noi veniamo da una legge sulla riforma portuale che è del 1994, quindi siamo a 20 anni di distanza, ma da 12 anni nelle aule parlamentari, Camera e Senato, si discute, senza che si sia riusciti ad arrivare ad una riforma, della riforma della legge portuale. Giusto per darle un dato, nel 94, quando è stata fatta la legge di riforma dei porti, venivano, non so, a Gioia Tauro, nuovo porto italiano, navi da 1500 contenitori, ora arrivano quelle da 14.000 e stanno per arrivare quelle da 18.000. Insomma, una vera e propria rivoluzione dal punto di vista dello shipping, ma i porti nel frattempo non si sono adeguati in termini anche della legislazione di come dovevano. L'accoglienza, diciamo, dimensionale non è, è difficoltosa, ecco, diciamo così, intanto. Ma quindi dico, dal punto di vista del metodo, io concordo, perché il governo in qualche modo ha capito che 12 anni non si è riusciti a varare una nuova legge, quindi un decreto legge, uno sblocca Italia, sblocca porti, è necessario. Il problema è poi entrare nel merito, perché noi abbiamo visto parecchie bozze di questi provvedimenti, dobbiamo, da quello che abbiamo esaminato, abbiamo degli elementi positivi, ma sicuramente degli elementi che vanno migliorati. Ecco, ce li indica, avvocato, soprattutto quali sono quelli positivi che naturalmente gli operatori del settore in qualche maniera attendono, appunto, positivamente. Le aggiungo anche un altro aspetto: so che il testo prevede la diminuzione da 24 a 14 delle attuali, appunto, autorità portuali, trasformandole in distretti chiamati autorità portuali logistiche. Questa è una novità che voi condividete? Ma io personalmente penso che sia una novità necessaria. Una razionalizzazione sostanzialmente. Noi abbiamo 8.000 chilometri di costi, quindi quando si parla di troppi porti in Italia sicuramente bisogna tenere conto anche della geografia del nostro paese, e quindi del fatto che i porti anche naturalmente siano nati, però sicuramente le autorità portuali sono poi quelle su cui si concentrano un po' i distretti logistici, su cui si devono andare a interfacciare le reti TEN-T europee, cioè le grandi reti di trasporto, ed evidentemente le 24 autorità portuali attualmente in Italia sono troppe. Tanto per farvi un esempio, noi tra la Puglia e la Sicilia abbiamo attualmente 9 autorità portuali in 2 regioni che complessivamente non arrivano al 10% del PIL italiano, quindi è evidente che certi accorpamenti, certi, diciamo, sinergie vanno fatte. Quindi da questo punto di vista il mio giudizio complessivamente è positivo. Evidentemente il problema è poi vedere come la governance opera nei porti aggregati, e questo sicuramente è legato anche al secondo aspetto, che è anche giudico positivo, quello del sistema e del metodo per arrivare alla nomina dei presidenti. Ah, ecco. Oggi è noto che su 24 autorità portuali 9 sono commissariate di porti importanti, anche come Napoli, tutti i 2 porti sardi, siciliani. Insomma, abbiamo parecchi porti che sono in un regime di straordinarietà e anche da più di un anno. Con il sistema che propone lo sblocca Italia, lo sblocca porti, che vogliamo chiamarlo, il sistema viene molto semplificato, nel senso che il ministro che propone un nome e la regione interessata deve dare un parere, ma è un parere obbligatorio ma non vincolante, per cui si snellisce una pratica che era, devo dire, negli ultimi anni diventata complicatissima. Certo, gli aspetti migliorabili invece della riforma del sistema portuale? Sì. Prima di tutto la sburocratizzazione. Io non mi stanco di dire che un grande problema italiano, e per quanto riguarda il nostro microcosmo dei porti, purtroppo non è diverso dal nostro, da quello che poi avviene nel paese, è la burocratizzazione, è la necessità di semplificazione. Guardi, il problema qual è? Che poi chi sono i clienti dei porti? Sono le merci e gli armatori. Le merci sono merci italiane in importazione. Certo, le aziende italiane, certo. E siamo più abituati già alla burocrazia, ma gli armatori no, perché come dire, il 90% degli armatori che vengono ai porti sono armatori stranieri, soprattutto con le grandi rotte internazionali, con i container, e questi armatori vogliono delle certezze, cioè vogliono arrivare in un porto e sapere che c'è un'autorità, che è l'autorità portuale, che poi governa tutte le problematiche del porto, quindi coordina anche tutte quelle che sono le problematiche di natura doganale, di natura come dire, di logistica. E quindi questa è sicuramente una necessità, certo. Dare maggior peso e maggior possibilità di incidere a chi poi deve coordinare queste attività dell'autorità portuale. Certo, l'altro aspetto, sì, giusto per dare un cenno su un problema purtroppo gravissimo, è quello dei dragaggi. ingaggi. Io ho letto con attenzione il testo che è andato in Consiglio dei Ministri e devo dire che è un testo assolutamente insufficiente. Noi ancora consideriamo i porti come se fossero delle baie, come dire, delle riserve marine. I porti sono delle zone industriali e noi dobbiamo rendere possibile nell'ambito dei porti, sempre nel massimo rispetto dell'ambiente e quant'altro, che determinati fanghi, che non sono fanghi inquinanti ma che sono fanghi normalmente, come dire, dei porti, cioè di una zona industriale, possano essere spostati da un posto all'altro all'interno del porto, perché evidentemente è questo uno dei problemi. Arrivano navi più grandi, abbiamo banchine con pescaggi più bassi, certo. Quindi chiaramente questa cosa comporta che poi semmai alla fine gli armatori, sempre i clienti dei porti, dicono: non ci veniamo più in qualche porto italiano, ce ne andiamo in Nord Africa o già vanno in Nord Europa, e poi la merce, per così dire, ci arriva di rimbalzo, cioè la merce sempre arriva in Italia o parte dall'Italia, ma una cosa è che mi viene a Gioia Tauro o a Genova direttamente, un'altra cosa è che mi viene semmai a Tangermed in Marocco e poi mi arriva con una nave piccola in Italia, o mi arriva a Rotterdam e poi via strada mi viene. Infatti tutta questa situazione ha portato proprio Rotterdam ad essere a livello europeo il primo porto per transito di container, no? Se non ricordo male, in questa classifica, dove troviamo anche Amburgo, Anversa, Valencia, non solo, per quello che riguarda l'Italia la troviamo solamente al nono posto. Quali sono, come dire, quei modelli verso i quali possiamo tendere, avvocato Masucci, come possiamo fare a scalare questa classifica? Prima di tutto Rotterdam fa da sola più container che tutti i porti italiani, questo per darle un dato, nonostante che l'Olanda abbia meno di 20 milioni di abitanti, l'Italia 60, evidentemente loro hanno fatto un distretto logistico che va al di là della sola Olanda, per cui riescono poi ad arrivare anche a oltre 1000 chilometri al porto di Rotterdam con una efficienza logistica che parte evidentemente al porto. Ma guardi, io dico sempre basta fare come i giapponesi, copiare i modelli, ma senza andare a Rotterdam o Anversa, io mi fermo a Barcellona. Barcellona nel 2013 ha investito 1000 miliardi nel porto, di cui più della metà, 550, sono soldi pubblici, ma 400 ce l'hanno messi i privati, cioè laddove c'è effettivamente una governance che funziona. Pensi a Barcellona, il presidente lo nomina il governo centrale sulla base di una proposta del governo di Catalogna, ma il direttore generale è un manager, sì, che traguarda temporalmente il mandato del presidente e quindi sta lì fino a tempo indeterminato. Evidentemente io mi ostino sui modelli di governance, perché poi questo modello di governance è il modello di Anversa o di Amburgo, di Rotterdam, dove addirittura hanno un amministratore delegato del porto e poi un presidente che detta la linea politica. Insomma, quindi senza guardare, sì, se la sua preoccupazione? No, la mia preoccupazione è sempre quella poi della scelta, perché nel testo che proposto, che è andato in Consiglio dei Ministri, laddove si parla delle competenze del Presidente, si parla di competenze un po' allargate. Nella vecchia norma si parlava di competenze tecniche, manageriali nel settore dei porti, della logistica e dei trasporti, oggi mi pare che si amplia ha una competenza anche di tipo istituzionale. Non vorrei che dietro questo si nasconda il tentativo poi di poter metterci dei politici che poi sappiano poco di porti e di logistica. Io volevo arrivare a fare questa considerazione, ma vedo che lei mi ha anticipato. Avvocato Masucci, noi dobbiamo terminare, allora attendiamo questa riforma dei porti da 12 anni, questa sarà la volta buona secondo lei? Io penso di sì, e noi daremo ancora un contributo, perché come ha detto il Premier Renzi, ora questi testi sono aperti ai cittadini quasi per una consultazione. Ecco, noi cercheremo di far arrivare le nostre proposte e sicuramente speriamo che effettivamente questa sia la volta buona. Bene, avvocato Masucci, grazie per essere stato con noi, naturalmente in bocca al lupo. Ed eccoci ritrovati in diretta ancora. Buonasera da Deborah Rosciani, questa sera al timone di Focus Economia. Senza Sebastiano Barisoni mi prendo una licenza e non vi racconto la giornata di borsa, o meglio, ve la racconto ma vi do il motivo principale per cui oggi in realtà la giornata di borsa la si è osservata con grande attenzione dalle prime battute, quindi dall'apertura. Molto movimento sui titoli del settore bancario perché c'era grande attesa per la reazione dei mercati rispetto a questo salvataggio condotto dallo Stato portoghese che inietterà quasi 4 miliardi e mezzo di euro nel banco Espirito Santo. E visto che è stato salvato, insomma, il nome davvero è proprio l'ideale per questa banca. Comunque, a parte tutte le battute anche di cattivo gusto, vi racconto che intanto la giornata si sta chiudendo contrastata in Europa, con Parigi che sale dello 0,34%, Francoforte negativa per lo 0,6%, Londra più 0,03%, inchiodata sulla parità Wall Street che non si muove, Milano più 0,09%. Stamattina Milano andava meglio, guadagnava oltre mezzo punto. Migliori titoli: UbiBanca più 1,87%, Mediolanum più 1,57%, Popolare di Milano più 1,56%, Intesa San Paolo più 1,42%, Telecom, in cui è entrata, come dicevo poco fa, la banca centrale cinese, guadagna sul finale l'1,41%. I peggiori titoli: Salvatore Ferragamo meno 3,41%, TOTS meno 3%, quindi settore della moda in grande difficoltà oggi, insieme a Yux meno 2,69%, World Duty Free meno 2,56%, A2A meno 2%, Case New Holland Industrial meno 2%. Buonasera Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Buonasera a te agli ascoltatori. Allora, raccontiamo un po' la vicenda del banco Espirito Santo, al centro di una vera e propria tempesta finanziaria da diversi mesi, però in questo caso lo Stato salva. Allora, intanto è chiaro che non vogliamo più vedere le conseguenze di un fallimento bancario, perché sono sempre pesanti. Noi ci ricordiamo il più dirompente ovviamente degli ultimi anni, che è stato quello di Lehman Brothers, però poi tante altre piccole banche hanno fatto la stessa fine. Intanto, appunto, 4 miliardi e mezzo non è che sia un salvataggio proprio onerosissimo dal punto di vista, a parte che lo Stato portoghese, anche piccolo, avrà un bilancio, come dire, proporzionato, no? È un salvataggio importante? No, invece sì, è importante, perché se pensiamo che il Portogallo ha ricevuto dalla Troica 70 miliardi dall'inizio della crisi e pensiamo al PIL del Portogallo e alla dimensione bancaria, è un salvataggio importante. D'altra diciamo parte, che l'hanno salvato il Banco Espirito Santo tutti i contribuenti europei. Lo stanno salvando i contribuenti europei, forse recupereranno dei quattrini se questa bad bank, perché cosa è successo? Ecco, esatto, andiamo all'inizio. La storia, come dire, è sempre una storia di io lo chiamo rapporto incestuoso, tra, perché la banca è fallita non perché ha condotto male le sue attività, ma la ragione principale è che per anni ha finanziato la famiglia di riferimento, questa famiglia Espirito Santo, il suo discendente Salgado è stato posto agli arresti, una famiglia importante legata a Salazar. La famiglia era il principale socio con il 25% della banca, questo da molti anni. Il problema è che la famiglia a monte aveva delle sue attività finanziarie. Cosa succedeva? Che la banca prestava generosamente alla famiglia soldi per un importo che gli analisti stimavano già un mese fa, quindi insomma è stato un fulmine a ciel sereno, ma chi guardava i conti avrebbe dovuto accorgersi che la banca aveva prestato alla famiglia per le sue attività la bellezza di 4,9 miliardi. Guardate che le cifre, vedete che coincidono, sì, un po' più del salvataggio, coincidono non a caso, perché il fallimento della banca, che ha chiuso il semestre con una perdita di 3,6 miliardi, aveva chiuso con 500 milioni l'anno scorso, quindi in totale ha perso 4 miliardi. Badate bene che la banca aveva un capitale di 6 miliardi, quindi se tu presti 4 miliardi e 9 alla famiglia e hai capitale per 6 miliardi, tu stai prestando l'80% del tuo patrimonio a un solo soggetto. Guarda caso è il tuo azionista. Voi immaginate un amministratore delegato che si rifiuti di dare un prestito al suo socio. È difficile che accada. È improbabile, diresti. Però uno si chiede, dov'era la banca centrale portoghese? Perché come questi conti li vedevano gli analisti che segnalavano questa grossa esposizione verso la famiglia, e quando è grossa rischia di essere anomala, perché tu concentri il rischio se qualcosa va male, come è andato a monte, cioè l'attività e la famiglia sono andate progressivamente in dissesto, va in dissesto la famiglia, va in dissesto la banca, come dire. Il problema è che la banca non è della famiglia, la famiglia aveva il 25%, un 15% l'aveva il Credito Agricole, cioè i francesi, esatto. Il Portugal Telecom era sia azionista che creditore della banca, e poi altro incesto, altro anche socio lì forte, e uno si chiede, ma questi soci forti non guardavano i bilanci, non vedevano questa esposizione massiccia? Il tema qual è? È che questa volta giustamente il governatore della Banca Centrale, e l'ha detto non a caso, dice: questa volta il costo della bad bank, cioè la banca separata tossica, se lo pagheranno gli vecchi azionisti e gli obbligazionisti subordinati. Cosa vuol dire? Che ovviamente tu hai causato il danno e tu ti beccherai a parte le perdite. Peccato che tra gli azionisti della banca c'era almeno un 50% di risparmiatori portoghesi che, guardando i bilanci, non si accorgevano che la banca andava male. Come non mi accorgerei io se è una banca italiana dove ci metto 1000 euro. Quello che dice il governatore della Banca Centrale è una magra soddisfazione, perché è vero che pagherà la famiglia e pagherà Credit Agricole, ma paga anche un 50% di azionisti che avevano investito, come da noi fosse intesa, la prima banca del Portogallo. Ah, quindi ecco, la proporzione è questa, è la prima banca portoghese, quindi è grave anche questa cosa qui. Cioè, infatti, cioè, sembra di dimensioni modeste, ma dobbiamo rapportarlo al paese. Ripeto, ha il ruolo che ha Intesa in Italia o Unicredito. Mm-hmm. Quindi non è uno scherzo. Dice ancora un'altra cosa, che, come dire, è fallita Dexia 2 anni fa in Belgio e in Francia, è stata salvata, cioè oramai i salvataggi pubblici sono all'ordine del giorno, cioè nessuna banca verrà fatta più fallire, questa è la lezione di Lema. Il problema è chi paga il costo. Allora, inizialmente sarà lo Stato portoghese, poi questa bad bank venderà lentamente le cose buone che gli rimangono e dovrà restituire i soldi allo Stato portoghese. Quando tu parli del fatto che saranno anche i piccoli azionisti che dovranno pagare per questo fallimento, allora che cosa intendi esattamente? Perché già il titolo è tracollato in borsa, oggi abbiamo avuto un altro meno 40%, siamo a 0,08 centesimi, quindi già di fatto il capitale detenuto da qualunque azionista è bruciato. Purtroppo è esattamente questo, cioè quelle perdite lì non sono recuperabili, questo è un fatto sicuro. Il vantaggio è che i depositanti non corrono rischi perché saranno trasferiti nella banca nuova, cioè i depositi torneranno a essere, verranno messi in questa nuova banca che verrà iniettata per 4,9 miliardi dallo Stato portoghese, quindi la banca parte sana. Il nuovo banco. La banca vecchia, cioè la bad bank o il vecchio Banco Spirito Santo, è destinato ovviamente a finire, è in agonia, e le perdite sono già conclamate. Il vantaggio è che questa volta non pagano gli obbligazionisti, cioè chi ha comprato obbligazioni non subordinate, cioè quelle che hanno il cui capitale va restituito e non è subordinato a pagare prima gli altri creditori, quelli pagheranno il prezzo. Gli obbligazionisti normali vedranno salvaguardati loro. Finiscono nel nuovo banco. Quindi è una soluzione che tutto sommato sperimenta per la prima volta quello che l'Unione Bancaria Europea farà in futuro per i salvataggi. Certo. Che le perdite saranno in capo agli azionisti sicuramente, ma non agli obbligazionisti e non ai depositanti, per salvaguardare appunto, come dire, i rischi sistemici. Certo. Perché tant'è che i depositanti avevano cominciato già da un mese a tirar via i quindi, soldi. Almeno quello. E si era visto il titolo cadere del 30-40%. Certo. Senti Fabio, tu che hai una capacità analitica notevole, oltre che capacità giornalistiche del tutto evidenti, non è che ci ritroveremo qualche italiano che si è comprato qualche titolo del Banco Santo Spirito o qualche obbligazione? Mi pare che al momento nessuno abbia sollevato, però. Può essere, perché tenete conto che il Portogallo è stato con l'Irlanda uno dei primi paesi a risollevarsi. Vi ricordate i bond portoghesi? In realtà hanno riacquistato molto valore, e quindi quando c'è stato il ritorno sui paesi periferici, Italia inclusa, c'è stato il ritorno anche sul Portogallo. Qualche gestore di fondo comune sicuramente avrà comprato il Banco Spirito Santo, essendo la prima banca del Portogallo. Gli è andata male in questo caso. Altre vicende, tutto sommato il contagio non c'è stato. Perché tutti, ovviamente, gli analisti dicevano c'è la mina portoghese, del resto anche l'Argentina contagio vero non c'è stato. E questo secondo default tecnico degli ultimi giorni. Io mi sarei aspettato, comunque, a leggerla da lontano, uno vede un secondo default, vede la banca portoghese in difficoltà, si aspetta un effetto contagio come la crisi Lehman. Evidentemente la consapevolezza che c'è una cintura di salvataggio che comunque funziona evita il contagio finanziario. Sì, diciamo che poi l'Argentina ha anche tutte le sue caratteristiche in questo secondo default, perché poi ci sono soldi per pagare ma sono congelati. Però in America, eccetera. Va ricordato che se fosse accaduto solo 2 anni fa questi due fatti, forse avremmo avuto ripercussioni maggiori. Questo non vuol dire che stiamo vivendo in un mondo perfetto, attenzione, dico solo che il contagio non si è verificato e questo comunque è una buona notizia. Esatto, adesso non vorrei che adesso qualche altro evento ci mettesse alla prova. Senti, un'ultima domanda, sì. Non è che abbiamo qualche altra famiglia a Salgado in giro per l'Europa? Bah, difficile dirlo, il tema è sempre: state molto attenti quando c'è una azienda di controllo che ha attività sue e quando è padrone, tra virgolette, di una banca, c'è da aspettarsi che usi la banca un po' come un banco ma personale. Ecco, uno guardi l'azionariato, se trova una famiglia imprenditoriale molto attiva che ha anche una grossa quota in una banca, io farei un po' più di attenzione. Mi scrive, scusami, no, ma sono un po' stupita da un messaggio che arriva: chi ha un mutuo, che cosa rischia? Io ne ho uno con questa banca. Com'è possibile che ci sia un italiano che ha un mutuo con il banco e Spirito Santo? Tina, ci faccia la cortesia, ci scriva in privato. Ha venduto, insomma, Barclays ha attività in Italia da anni e vende mutui. Io non ricordo, non vedo sportelli del Banco Spirito Santo. A meno che la nostra ascoltatrice non abbia là una proprietà o e abbia una proprietà assicurato. Là. E comunque, ripeto, chi perderà i soldi sono gli azionisti che li hanno già persi, gli obbligazionisti subordinati, non perderanno soldi i depositanti e tantomeno i mutuatari. Certo. L'adeguamento del catasto non è una batosta, cara signora Debora, ma equità fiscale con coloro che si erano già adeguati. Non è esattamente così, condividiamo il principio dell'equità fiscale per la riforma del catasto e lo condivide anche Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti, un nostro esperto di riferimento per tutte le questioni legate alla fiscalità immobiliare. Mion, buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, 8 minuti di tempo per spiegare un po' e analizzare quello che scrive il Sole 24 Ore quest'oggi. Pistoia, Pesaro e Messina sono le tre città in cui il nuovo catasto rischia di portare i maggiori rincari d'imposta, allora detta come la dice l'ascoltatore, dove il fisco porterà un po' più di equità, mettiamola così. Sono questi infatti i tre capoluoghi di provincia in cui i valori catastali sono più lontani dalle quotazioni medie di mercato, con un divario che nel caso di Pistoia sfiora il 300%. Mion, di che cosa stiamo parlando? Intanto, noi prima abbiamo parlato nella trasmissione della riforma dei porti italiani che attende da 12 anni, anche la riforma del catasto, siamo lì, eh? Beh, con la riforma del catasto anche di più, siamo molto un di po' più in là di dove era la riforma dei porti, sicuramente. Beh, per quanto riguarda questo bellissimo lavoro di sintesi che hanno fatto Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente, innanzitutto diciamo che si tratta di rincari potenziali, se no si rischia di lanciare anche un messaggio, come dire, di fuorviante, sì, esatto. Però è un lavoro molto preciso, è un lavoro ben fatto che confronta il valore catastale con il prezzo medio di mercato che è stato diciamo così estratto da Nomisma, quindi dall'osservatorio immobiliare di Nomisma. Queste forti differenze città per città sono figlie di una, diciamo così, di una riforma non più avviata a partire dagli anni 60, ma soprattutto figlie anche di estimi catastali che sono stati assegnati alla fine degli anni 80, che non sono più stati aggiornati, e quindi troviamo in questi capoluoghi di provincia differenze sostanziose e sostanziali anche dettate da quelli che sono poi gli elementi di come dire, legati al mercato immobiliare, quindi all'acquisto e alla vendita a seconda delle varie fasi. Certo. Soprattutto perché poi sono oggetto di questo studio le categorie catastali più usuali, che rappresentano circa l'80% dell'intero stock immobiliare italiano, quelle cosiddette in A2 e in A3. Certo. Allora, se dovessimo fare una sintesi concreta per i nostri ascoltatori, Mion, riprendendo anche in questo caso alcuni concetti ribaditi questa mattina dal Sole 24 Ore, chi ci guadagnerà davvero con la riforma del catasto, chi invece ci rimetterà? Se di rimetterci possiamo parlare, perché in realtà diciamo che le persone che ci rimetteranno sono quelle che forse negli anni passati ci hanno guadagnato un bel po'. Beh, sicuramente qui si tratta intanto di definire cosa significa guadagnare e cosa significa rimetterci. Sicuramente i valori di tutte le abitazioni, così come sono concepiti attualmente, cioè il cosiddetto valore catastale, e che è quello che viene utilizzato per il calcolo delle imposte, quindi il calcolo di tutte le cosiddette soprattutto patrimoniali come IMU prima e TASI da quest'anno, sicuramente sono iniqui e lontani dai valori di mercato. Quindi ci sarà un aumento non generalizzato uguale per tutto, ma ci saranno situazioni in cui ci saranno maggiori rincari oppure rincari inferiori a seconda della varia tipologia dell'immobile. Quindi la casa classica di cui abbiamo parlato molte volte, cioè l'abitazione classica al centro della città, accatastata in epoca, come dire, appena ancora prima della guerra, nel dopoguerra, che nel frattempo ha avuto una forte rivalutazione a fronte chiaramente di un miglioramento del centro storico con negozi e con altri tipi di servizi, è probabile che avendo una rendita molto bassa avrà un rincaro decisamente superiore a confronto di un'analoga abitazione con gli stessi vani nella periferia della stessa città, dove sappiamo che la periferia è nata grazie all'afflusso dell'immigrazione, quindi di nuova popolazione e costruzione in data successiva a quella del centro, quindi con un'assegnazione di una classe sicuramente più adeguata, come può essere una 2, e una rendita già più alta, quindi questa seconda abitazione subirà un rincaro in termini relativi inferiore rispetto alla precedente. Allora, per chi non capisce, perché naturalmente non è intanto un tema molto semplice, la portata di tutte queste novità, va segnalato, Mion, con molta forza, che tutta questa revisione del catasto non deve essere fatta per fare un dispetto ai contribuenti e ai proprietari appunto di case nel nostro paese, che magari fino a questo momento hanno beneficiato di una fiscalità vantaggiosa. Il tema è che i comuni sono anche in grande difficoltà sulla elaborazione delle aliquote di IMU e TASI, quindi la riforma del catasto è finalizzata anche a questo, no? A sistemare un po' tutta la questione della base imponibile che si riflette sulla distribuzione di IMU e TASI, che oggi è totalmente, come dire, inadeguata. Certo, mi permette, allora, l'obiettivo sicuramente è quello di una maggiore equità fiscale. Questo è come dire, l'obiettivo finale. Grazie all'avvio della delega fiscale, che è la legge che è stata varata a marzo di quest'anno, proprio nell'articolo 2 viene affrontata la riforma del catasto. L'obiettivo è sicuramente ambizioso, cioè è riuscire a far pagare correttamente tutti i possessori di immobili in Italia. No, infatti, anche perché vedo veramente molte contestazioni tra i messaggi che ci stanno arrivando. Allora, se voi siete d'accordo sul fatto che magari adesso io faccio l'esempio chiaramente più estremo, che però è calzante, perché non è detto che non ce ne siano di queste situazioni, Miondi, che abita in via Monte Napoleone in una palazzina di tutto rispetto e che magari ha una rendita catastale di quella casa come se fosse un'abitazione appunto di due stanze, mezza diroccata, con un bagno che sta fuori. Certo, è proprio questa la grande sperequazione che è stata messa in tutta evidenza dall'IMU precedentemente. Con l'ICI questa forbice era più ristretta. Probabilmente l'obiettivo, dicevo, è ambizioso, anzi sicuramente ambizioso, però perlomeno abbiamo intrapreso la strada giusta. Infatti la scorsa settimana è stato licenziato la bozza di decreto attuativo sulle commissioni censuarie, che è il primo step per la riforma del catasto. Questo è importante, tra l'altro c'è una grande coesione tra le due commissioni, finanze e tesoro, sia del Senato che della Camera, proprio per aver licenziato un'approvazione di fatto similare per quanto riguarda le commissioni censuarie, e sono stati recepiti anche quelle che sono state le richieste dei vari stakeholders. Infatti nella sesta commissione finanze è stata aperta anche una attività importante di indagine conoscitiva che ha voluto il presidente Mauro Marino, dove tutti gli stakeholders sono potuti andare e dire finalmente per la prima volta quale potevano essere, come dire, non soltanto le finalità auspicabili, ma i metodi e quindi l'operatività per poter attuare in fretta questa riforma e dare quello che diceva appunto lei, l'equità fiscale. Certo. L'equità fiscale che però è una parola chiave importante che è contenuta nella delega, la cosiddetta invarianza di gettito per i questo comuni. Anche per tranquillizzare gli ascoltatori, perché il tema dell'invarianza di gettito sarà il tema del prossimo schema di decreto legislativo. Sarà un'invarianza di gettito a livello comunale, a livello nazionale o a livello di tributo? Perché i sindaci, il rischio vero è quello che possano poi, presi dalle esigenze di cassa, delle esigenze di bilancio, utilizzare poi il rincaro di aumentare del valore catastale per poter aumentare l'imposizione a livello locale. Questo non deve assolutamente accadere. Vabbè, comunque, insomma, prima di scrivere la parola fine su tutta questa operazione, ancora qualche mese ci vorrà. Grazie a Mirko Mion, presidente di Agefis, buona serata. Noi grazie abbiamo... a lei, buona serata a tutti. Allora, grazie a Mauro Del Corno per l'aiuto in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Io con voi mi risento domani alle 11 con Cuore Denari, domani sera anche a Focus Economia, e così per tutta la settimana. Per la vostra felicità, da Deborah Rosciani, buona serata a tutti.